ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Libia, Serraj si dimette, Venezuela, l'ONU contro Maduro, benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The UN's Human Rights Council lays out what it calls crimes against humanity committed by the government of Venezuelan President Nicolas Maduro. كما كانت ولازال بعض الأطراف المتعنتة تصر على تعميق هذه الاستفافات. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, una nuova puntata con due importanti pagine di esteri da raccontarvi. Con me ci sono sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in console Roberta Frisani. Due pagine, dicevo, la prima tutta dedicata alla Libia, perché dopo le indiscrezioni di cui vi avevamo dato conto nei giorni scorsi delle possibili dimissioni di Fayez al-Sarraj, il premier riconosciuto del governo di Tripoli, quel governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e dalla stragrande maggioranza della comunità internazionale, ha deciso di fare il grande passo, ha annunciato le dimissioni che avverranno entro ottobre, lo ha fatto in un lungo discorso in diretta televisiva alla TV libica. Con quali conseguenze, non soltanto per la Libia, ma anche per l'Italia e i tanti attori esterni che sono coinvolti nel caos libico. E poi la seconda pagina, perché è arrivato un sonoro schiaffo giudiziario internazionale a Nicolás Maduro. Il presidente venezuelano infatti è accusato di crimini contro l'umanità. Un'inchiesta delle Nazioni Unite che è stata condotta in realtà a distanza, complice il costante diniego da parte delle autorità venezuelane a indagare sul campo, avrebbe raggiunto conclusioni che, se confermate, evidentemente toglierebbero terreno sotto i piedi al governo di Maduro, governo già di per sé fragile, lo sapete, complice anche quell'altra spina nel fianco che si chiama Juan Guaidó, l'autoproclamato presidente che molti paesi stranieri hanno riconosciuto. Vi porteremo anche per le strade di Caracas per capire come i venezuelani, come la politica venezuelana sta reagendo a queste pesantissime accuse delle Nazioni Unite. 349-238-6666, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, il tutto per porre domande e commentare sui due grandi temi di quest'oggi. Noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta a Riyadh, in Arabia Saudita, non tanto per raccontarvi, lo abbiamo già fatto, di come la monarchia saudita potrebbe ben presto seguire Bahrain e Emirati Arabi Uniti in quel processo di normalizzazione avviato da poco, con quella cerimonia che vi abbiamo raccontato, si è svolta alla Casa Bianca ieri a Washington, alla presenza di Donald Trump, a ristabilire cioè relazioni diplomatiche normali con Israele. Ci interessa l'Arabia Saudita per un'indiscrezione che arriva dal giornale, dal prestigioso quotidiano britannico The Guardian, il quale i suoi cronisti sono entrati in possesso di documenti riservatissimi che rivelerebbero come l'Arabia Saudita posseda sufficienti riserve di uranio per iniziare una produzione domestica di energia nucleare. Le carte che i reporter del Guardian sono riusciti a scovare, sulle quali hanno messo le mani, sono carte redatte da una società che fa esplorazioni proprio nell'ambito di minerali preziosi come l'uranio, una società cinese, la quale indicherebbe la presenza di riserve di uranio per un totale di 90.000 tonnellate divise in tre centri situati nel centro, nel nord-ovest del paese del Golfo. Queste quantità di uranio, ancora non si sa a che costo potrebbero essere estratte, sarebbero sufficienti per alimentare i due reattori che Riyadh intende costruire. Non solo, ci sarebbe un surplus di uranio che potrebbe essere destinato all'esportazione. Questo naturalmente, al di là dell'importanza per quello che è gli eventuali utilizzi dell'energia atomica, è importante perché la monarchia saudita, così come tanti altri paesi del Golfo, hanno fondato la loro ricchezza, il loro benessere e soprattutto la loro grande influenza geopolitica sul petrolio. Il petrolio ultimamente ha perso quella rilevanza e quella potenza di efficacia come leva geopolitica, e la presenza di questo uranio potrebbe essere uno dei tasselli della transizione di queste monarchie del Golfo, che da tempo si attrezzano per cercare di superare, svincolarsi dalla dipendenza dal petrolio. Poi torniamo a parlare di immigrazione. Vi do conto di quello che sta accadendo a Lesbo, perché la polizia greca ha avviato un'operazione per andare a ricollocare migliaia di rifugiati e migranti che sono sparsi quasi in tutta l'isola dopo che il campo di Moira qualche giorno fa è stato distrutto dalle fiamme. C'è un'inchiesta in corso, sarebbero stati arrestati i colpevoli, che sarebbero appunto quattro dei migranti, dei tanti migranti presenti nel centro. Questa mattina sono state spostate 12.000 persone che popolavano appunto Moria nel campo di Karatepe, che è stato allestito in tutta fretta negli ultimi giorni vicino a Mitilini, la città principale dell'isola. Molte delle persone in realtà si sarebbero rifiutate di entrare in questo nuovo campo, temendo condizioni se non uguali, addirittura peggiori di quelle di Moria. E da parte sua la popolazione di Lesbo, i greci, i locali, lamentano che questa strana situazione di forzata convivenza con un numero esagerato rispetto alla capienza del campo possa andare avanti. Nel frattempo il ministro della protezione civile greco ha garantito, anche con un occhio diciamo alle potenzialità turistiche dell'isola compromesse anche da questi campi, ha garantito che l'isola sarà svuotata dai rifugiati entro la Pasqua del prossimo anno. A noi non resta che constatare la grande lentezza e l'elefantiaca inefficacia per il momento delle mosse del governo greco. Staremo a vedere. E poi vi porto in Germania, o meglio contemporaneamente in Germania e in Russia, perché ci sono novità riguardo al caso Navalny. Perché dopo il suo risveglio dal coma, alcuni collaboratori del suo staff hanno fatto sapere di aver trovato tracce dell'agente Nervino Novichok su due bottiglie recuperate nella stanza d'albergo dove il dissidente russo aveva pernottato a Tomsk in Siberia. Se fossero confermate queste voci, naturalmente, e questi indizi, cadrebbe l'ipotesi, una delle prime, per cui Navalny sarebbe stato avvelenato invece con un caffè, col Novichok inserito in un caffè, al suo arrivo all'aeroporto di Tomsk in Siberia. L'account Instagram di Navalny ha fatto vedere i collaboratori del suo team che recuperano oggetti dalla stanza d'albergo un'ora dopo la notizia del malore del dissidente. Questo mostra anche la capacità di reazione, come dire, del team, dello staff di Navalny, avvezzi evidentemente a questo genere di autotutela. Quindi appunto, dicevo, tutti questi oggetti recuperati sono stati inviati in Germania per le analisi, perché il team di Navalny evidentemente non si fida particolarmente della giustizia russa, e quindi per il momento la tesi è che il momento cruciale dell'avvelenamento sarebbe coinciso con la permanenza di Navalny in quella camera d'albergo. Intanto arrivano i messaggi al 349-238-6666, questi erano i nostri dossier internazionali, saranno i prossimi approfondimenti qui a Nessun Luogo è Lontano. Adesso però andiamo in Libia, a Tripoli. Il clima politico si trova a uno stato tale di polarizzazione da rendere sempre più difficili i tentativi di mantenere unito il nostro tessuto sociale. Inoltre, alcuni partiti intransigenti insistono e continuano ad agire in direzione di una sempre più marcata spaccatura e a scommettere sulla guerra come modo per raggiungere i loro obiettivi. Finora abbiamo tentato di arginare il pericolo facendo delle concessioni che a volte non avremmo voluto fare. La voce che avete appena sentito è quella di Fayez al-Sarraj, il premier libico, quello di base a Tripoli. Così ha parlato alla TV libica. È l'inizio di un discorso, un lungo preambolo che ha poi dato spazio a quello che è stata la notizia bomba di queste ore per chi segue il Maghreb, per chi segue le vicende del Mediterraneo e del Medio Oriente allargato in generale. Fayez al-Sarraj lascia la guida di questo governo, non che fosse una personalità politica, come dire, dotata di una forte e solida spina dorsale. Lo si sapeva, era un po' in mano alle milizie, a uomini molto più potenti di lui, penso al ministro dell'interno Bashaga, al misuratino così vicino alle posizioni di Ankara. Era molto spesso strattonato per la giacchetta anche dai tanti attori internazionali che affollano lo scacchiere libico. Però di sicuro in parte era molto molto funzionale anche la strategia italiana. Il ministro Di Maio con il sottosegretario Manlio Di Stefano, che abbiamo avuto ospite proprio dopo quella visita 2 settimane fa, si era recato a Tripoli, aveva strappato anche una serie di vantaggiosi accordi economici anche per l'Italia in concorrenza con quelli turchi. Naturalmente adesso tra le domande che ci faremo c'è se le dimissioni di Fayez al-Sarraj, i prossimi colloqui a Ginevra, l'idea, questo è l'altro pezzo della notizia, l'altra faccia della medaglia, l'idea di andare molto presto a formare un nuovo governo di coalizione che includa tutte le anime libiche, compresa quell'est che ha visto ormai, lo diciamo da tempo, evaporare la figura del generale ribelle Khalifa Haftar. Ecco, quali conseguenze potrà portare all'Italia nel breve, nel medio, ma soprattutto nel lungo periodo? Ne parleremo con ospiti, con analisti che seguono da vicino le vicende libiche. Vi faccio sentire ancora una volta però la voce di Fayez al-Sarraj, che in qualche modo sembra la resa. Per molti è una figura fantoccio, una figura totalmente vuota, però molto molto ben presentabile nei grandi consessi internazionali. Cercheremo di capire chi andrà a occupare quel vuoto. Sentite ancora al-Sarraj. Oggi, mentre assistiamo alle consultazioni libiche sponsorizzate dalle Nazioni Unite, vogliamo essere positivi e speriamo che possano costituire un buon punto di partenza intorno al quale costruire maggiore consenso. Intendo comunicarvi il mio sincero desiderio di cedere i miei doveri alla prossima autorità esecutiva, in data che potrò comunicarvi con esattezza a ottobre. Auspico che il Comitato di Dialogo completi il suo lavoro e che scelga un nuovo consiglio e un primo ministro a cui verranno affidati i compiti. Prego Dio perché ciò avvenga. Questa è la voce di Fayez al-Sarraj. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano anche a Umberto Profazio, analista delle aree del Maghreb per il NATO Defense College Foundation. Umberto Profazio, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, con la sua competenza, la sua conoscenza del caotico teatro libico, tenteremo di mettere a posto qualche tassello, se possibile. In realtà è un anno e mezzo che ci proviamo con scarsissimi risultati, perché le situazioni in Libia è così fluida che ogni volta che siamo sicuri di averla fotografata in maniera forte, incisiva, poi a un certo punto un coniglio dal cilindro, dovrei dire dal pantano libico, va a sparigliare tutte le carte. Ci sono un po' di messaggi al 349-238-6666, qualcuno scrive: meno male, un burattino in meno in Libia, quanto rimpiangono Gheddafi in Libia, per esempio, rifacendosi a quell'età. In cui il colonnello reggeva con pugno di ferro anche le tante anime, le tante dinamiche libiche. Intanto Antonio Tale invece mi segnala una agenzia. Ci sono intese internazionali, leggo con voi, per formare un nuovo consiglio presidenziale. Il premier al-Sarraj è stato oggetto di pressioni per sistemare la scena politica in Libia poco prima della data delle presidenziali statunitense previste per il 3 novembre. A scriverlo è il Citizen Libyan Address, sintetizzando una dichiarazione di Abu al-Qasim Zayed, un componente dell'Alto Consiglio di Stato libico basato a Tripoli. L'idea, ve lo dicevo, è di andare a formare un nuovo governo che vada in qualche modo a riunificare le due anime libiche, quella della Cirenaica e quella della Tripolitania. Innanzitutto, Umberto Profazio, che idea si è fatta di questa quasi preannunciate, c'erano dei rumors, quasi preannunciate dimissioni di al-Sarraj? Sì, credo che si possano dare due importanti chiavi di lettura al riguardo. La prima non può che non partire dalle proteste di fine agosto a Tripoli, e quindi l'irruzione dei movimenti di protesta, l'irruzione delle Hirak, questi movimenti di protesta che sono comuni a tutta la regione. Abbiamo visto le proteste in Algeria l'anno scorso, a cosa hanno portato, abbiamo avuto le proteste di questo genere in Marocco, quindi una rinnovata centralità delle istanze popolari dopo anni in cui si è passato a combattere per le strade di Tripoli, ma non solo, e in cui si è assistito a un accantonamento appunto delle esigenze della popolazione che ha protestato per i disservizi, l'assenza di elettricità, di forniture di acqua, e questo ha indebolito sicuramente il governo di accordo nazionale di Sarraj. Un'altra lettura però non può non partire dallo scontro politico che vi è stato all'interno del GNA a fine agosto, e che ha visto la sospensione del ministro degli interni Fatih Bashagha, poi ritirata da parte di Sarraj. Quindi questo scontro tra queste due personalità così importanti all'interno dell'esecutivo. Credo che le dimissioni in generale possono essere uno sviluppo positivo, a patto che vi siano determinate condizioni. Dico sviluppo positivo perché possono aiutare a porre termine a quella iperpersonalizzazione della politica libica che è stato un ostacolo al processo di pace. Abbiamo visto appunto che il dialogo tra Haftar e Sarraj era ormai interrotto. Sì. Quindi il ricambio della classe dirigente magari può aprire delle nuove opportunità di dialogo, a patto che non vi sia una nuova edizione di questo sistema binario tra l'Est e l'Ovest, ma vi sia invece una maggiore attenzione alle diverse componenti sociali e tribali. Sì. Per cui la conferenza di Ghadames del 2019, poco prima dell'offensiva di Haftar, aveva posto le basi. La voce che state ascoltando è quella di Umberto Profazio, analista esperto di Libia, NATO Defense College Foundation. Con lui esploreremo anche molto presto quelli che sono come dire, gli utili che si possono portare a casa, che i vari attori stranieri possono portare a casa dalla discesa, anzi dall'uscita di scena dei Fayez al-Sarraj e da una Libia che tenta di riunirsi. Intanto torno su un'ascoltatrice che però mi sollecita su Lesbo. Faccio un piccolo passo indietro perché soffermarsi sul constatare la lentezza e la fatica del governo greco quando il ricollocamento dei migranti dovrebbe essere una questione europea. Il disastro delle isole greche è frutto dell'accordo tra Europa e Turchia, la responsabilità è dunque dell'Europa, su questo non c'è dubbio, l'abbiamo sottolineato più e più volte. È anche vero che però a un certo punto, quando un campo che deve contenere 3.000 persone ne contiene 12.700, esistono anche delle responsabilità da parte del governo che mette in piedi quella struttura, peraltro anche con fondi europei, dovrebbe a un certo punto dire non riesco a sostenere quella situazione, li ricolloco in altre isole o sulla terraferma, come peraltro in altri periodi aveva fatto. Detto ciò, abbiamo sempre stigmatizzato l'utilizzo da parte della Turchia di quell'accordo, quei 3,8 miliardi di euro per gestire i flussi migratori, gestiti, per usare un eufemismo, molto molto male, o quantomeno politicizzati in maniera molto molto rilevante. Fatemi però tornare su quella che è il dossier libico, che a questo punto diventa scottante dopo la conferma delle dimissioni di Fayez al-Sarraj. Verranno entro ottobre, era il partner privilegiato della Farnesina, del governo italiano, ma non solo, ben sapendo, Di Maio parlava anche con Bashagha, per carità, ben sapendo che quell'uomo era un po' come dire, la testa di ponte anche per gli interessi italiani in Libia. E così vengo alla seconda domanda, torno da Umberto Profazio, NATO Defense College Foundation, esperto di Libia e di Nord Africa. Chi è che vince di più e chi è che perde di più in questo strano percorso di transizione che chiaramente adesso facciamo molta fatica a delineare, però dei punti fermi li possiamo mettere. C'è un vuoto a questo punto di potere, emergeranno forse delle personalità più forti, a me viene in mente subito Fatih Bashagha, ma per ovvie ragioni. Poi dall'est potrebbe riemergere qualcun altro. Allora a questo punto tutti i vari attori, Italia, Turchia e comunità internazionale che stanno, diciamo, con i tripolini, e dall'altra parte Emirati Arabi, Egitto eccetera eccetera, che stavano invece con l'est, con la Cirenaica, come si comporteranno, come verranno lesi o meglio esposti i loro interessi, secondo lei, Umberto Profazio? Secondo me il ricambio era sicuramente necessario dopo diversi anni in cui lo status quo non è stato praticamente scalfito. Per quanto riguarda l'Ovest, sicuramente gli occhi saranno puntati sul ministro degli interni Bashagha, perché è sicuramente la personalità più forte, anche perché ha tra le mani uno dei dossier più scottanti, che è quello del disarmo della sì. E adesso milizie. E adesso poi apriremo anche quell'importantissimo capitolo. Sì, io non sottovaluterei però un'altra personalità importante all'interno del Consiglio Presidenziale, che è il vice presidente Ahmed Maitik, che è sempre stato in ottimi rapporti con Roma, Ma vi possono essere naturalmente anche degli outsider di compromesso. Ecco, l'importante è non concentrarsi troppo sui nomi, perché appunto si rischia di tornare a personalizzare troppo la politica in Libia. Per quanto riguarda l'est, invece, sì, abbiamo visto questa emozione di del presidente della Camera dei Rappresentanti, Aguila Sale, ma vi possono essere naturalmente altri interlocutori come l'ex ambasciatore presso gli Emirati Arabi a Nayed. In ogni caso, la progressiva rilevanza di Haftar, che nonostante appunto stia cercando di attirare l'attenzione per riassumere di nuovo una certa rilevanza, sì, per esempio con il caso dei pescatori, sì, italiani, oppure con una recente operazione antiterrorismo a Saba, non riesce comunque a ritornare sul tavolo delle trattative con la stessa Forse abbiamo perso la linea con Umberto Profazio, ma il concetto era molto chiaro: non ha la stessa forza, la stessa autorità e autorevolezza, visto che un uomo di armi, il generale Haftar. Intanto un po' di ascoltatori che scrivono al 349-238-6666 e ci aiutano a imbastire un viaggio che stiamo tentando di fare tra Tripoli e Tobruk. Daniele da Viareggio: l'unica personalità che potrebbe mettere d'accordo tutte le tribù è il figlio di Gheddafi, ma questa è una mia idea personale, così scrive Daniele. Vi faccio sentire intanto la voce anche di Claudia Gazzini, che è analista per International Crisis Group, esperta di Libia, la segue quel paese da vicino e sul terreno dal lontano 2012. L'abbiamo solleticata sul ruolo particolare che gli Emirati Arabi Uniti hanno avuto e stanno avendo soprattutto per le forze dell'est della Libia. Quegli Emirati Arabi Uniti che si sono riappacificati in qualche modo con Israele, presenza molto importante nel Medio Oriente allargato. Ecco, questa apertura del mondo arabo e degli Emirati a Israele e non solo potrebbe aver cambiato in qualche modo le carte anche nel teatro libico. Sentite cosa dice. La svolta degli ultimi giorni degli Emirati e l'accordo di Abramo sono certo significativi a livello di geopolitica regionale, ma è ancora prematuro vedere come e se questi accordi possono avere un'influenza in Libia per lo sblocco della situazione. Lo dico perché questo nuovo allineamento israeliano-emiratino, anzi, potrebbe consolidare questa linea emiratina di sostegno a Haftar, come l'abbiamo visto in questi anni. Di certo quello che vediamo nelle ultime settimane, gli ultimi mesi in Libia, gli Emirati comunque fanno ancora il gioco duro, certo non facendo la guerra e non sostenendo Haftar con le armi, ma ricordiamo sono tra i primi che appoggiano questa chiusura dei pozzi di petrolio e l'esportazione, il blocco delle esportazioni della produzione petrolifera. Quindi finché va avanti questo blocco non possiamo dire che la posizione emiratina si sia addolcita in Libia, e purtroppo le conseguenze di questo blocco sono severe, perché la Libia dipende più del 90%, quasi nella sua totalità, dalle rendite di petrolio. Quindi la chiusura dei pozzi per ormai gli ultimi 9 mesi significa che negli ultimi 9 mesi non ci sono state entrate nelle casse dello Stato, e questo significa anche che i servizi deteriorano, perché ci sono meno soldi per importare il gas, eccetera, e l'elettricità manca per 12-24 ore di fila, quindi c'è un deterioramento totale delle condizioni di vita nel paese. Una posizione più costruttiva emiratina potrebbe contribuire a cambiare questa realtà, ma per ora non ne vediamo le evidenze. Così Claudia Gazzini, analista di International Crisis Group, esperta di Libia, che inchioda in qualche modo gli Emirati Arabi Uniti alla loro responsabilità. Sono parte importante anche nel caos che è stato creato e soprattutto le disagiate condizioni di vita della popolazione. Direi, chiedo a Umberto Profazio di attenderci un attimo con pazienza. Andiamo a sentire come vanno le borse e poi l'ultima domanda per Profazio, che riguarda proprio lo smantellamento delle milizie, che è forse uno dei nodi più nevralgici quando si parla di Libia. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa lunga prima pagina di Nessun Luogo Lontano. Il terremoto che sta sconvolgendo la Libia, terremoto evidentemente politico, perché l'annuncio delle dimissioni di Fayez al-Sarraj va a sparigliare totalmente le carte e quasi quasi verrebbe da dire tutte le puntate di Nessun Luogo Lontano che hanno tentato di descrivere la Libia fino adesso diventano immediatamente vecchie, perché Fayez al-Sarraj si dimetterà entro ottobre e quella compagine di Tripoli sarà totalmente rimessa a nuovo e sarà unita alla parte dell'est della Cirenaica, un nuovo governo di unità nazionale. E quindi anche tutte le previsioni fatte a questo punto forse lasciano il tempo che trovano, ma la Libia ci ha abituato a dei rivolgimenti di fronte incredibili, per cui finché non vedremo i colloqui in Svizzera, in realtà saranno via internet sostanzialmente, come andranno ancora non si può dire. Con Umberto Profazio, che è analista del NATO Defense College Foundation, proviamo a esplorare un aspetto che è quello del programma per il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione delle milizie annunciato da poco dal Ministero dell'Interno tripolino. Cosa significa smantellare le milizie per Tripoli? Ma questo è il nodo principale della transizione libica dal 2011 fino ad oggi. I segnali che vengono dal terreno sono abbastanza preoccupanti, perché sembra vi sia un ritorno allo status quo ante dopo che l'offensiva di Haftar aveva provocato una unione delle diverse milizie per contrastare appunto l'avanzata del nemico comune. Ecco, in questo caso però, avendo approfittato del momento, ci siamo trovati di nuovo a un ritorno delle singole milizie, come il caso per esempio quella della Navasi Brigade, che è stata accusata di aver aperto il fuoco sui manifestanti a Tripoli ad agosto scorso. Ecco, Bashagha ha di recente annunciato un nuovo programma che intende portare avanti appunto il DDR, la smobilitazione delle milizie, ma anche qui bisogna chiedersi quanto è grande la discrezionalità nello stabilire se una milizia va smantellata oppure se può essere reintegrata all'interno degli organi dello Stato. E poi abbiamo già avuto ad esempio un tentativo con l'instaurazione di una Presidential Guard, ora si parla della possibilità di istituire una National Guard, ma stiamo parlando comunque della difficoltà di instaurare un approccio top-down, cioè dall'alto verso il basso, quando in realtà mancano le risorse. E qui io mi ricollegherei a quanto detto giustamente da Claudio Gazzini, cioè il fatto che il blocco petrolifero delle esportazioni stia diminuendo le entrate dello Stato rallenta in un certo senso il programma di disarmo. Perché non consente investimenti ed è costoso, no? Disarmare, riarmare, integrare, sono processi lunghi e costosi appunto. Perché non avendo le risorse a disposizione, questi sono processi che spesso noi pensiamo siano molto facili, ma sono processi molto complessi, durano molto anni e sono molto costosi, perché bisogna offrire delle alternative ai miliziani che abbandonano appunto la milizia per entrare a far parte magari dei corpi regolari, però con quali stipendi? Non arrivano i soldi, quindi in un certo senso il blocco delle esportazioni continua a essere uno dei principali nodi da sciogliere e di cui Haftar magari sta cercando di approfittare per preparare un ritorno sulla sua scena politica. E non c'è dubbio, perché non soltanto è un nodo da sciogliere, ma anche una formidabile leva politica che, come abbiamo spesso denunciato, forse è l'arma principale che viene utilizzata nel teatro libico, che è semplicemente chiudere i rubinetti. Lo ha ben sottolineato, tra le altre cose, Umberto Profazio, analista del NATO Defense College Foundation. Profazio, buona giornata e buon lavoro. Alla prossima. Grazie, buona serata. Intanto vi segnalo una breaking news dalla stampa. In un'intervista al quotidiano, il presidente della Commissione Affari Esteri di Tobruk, Yusuf Alaghouri, sostiene che presto gli equipaggi dei due pescherecci italiani compariranno davanti a un tribunale. Intervista rilasciata a Francesco Semprini. Se fosse confermato, va avanti quest'altra incredibile leva, quest'altra incredibile arma che sta utilizzando Tobruk, che sta utilizzando la Cirenaica, questa volta diretta e senza mezzi termini nei confronti dell'Italia. È certamente un dato preoccupante. Sono anche segnali, evidentemente, questi che vengono lanciati al governo italiano. Forse, ipotesi mia, le trattative non stanno andando benissimo, si alza la posta in gioco, si cerca visibilità. soltanto il tempo ce ne darà ragione. Questa era la lunga pagina, tutta dedicata alla Libia. C'è qualcuno che mi sollecita nel parlare della gestione della banca libica, dei fondi derivanti dal pagamento dei diritti estrattivi. Abbiamo spesso parlato del ruolo della banca centrale e della compagnia petrolifera. Ho come la sensazione che saremo costretti a tornarci, assolutamente, quindi consideratelo già fatto e già in cantiere tra i nostri dossier internazionali. Adesso però andiamo a Caracas, in Venezuela. La giustizia le va a llegar. Operación Tuntun. L'operazione Tuntun sta cominciando. Per tutti i terroristi, i violenti, i cospiratori e i congiurati, per tutti loro. Anche tu che mi stai guardando. L'operazione Tuntun arriverà anche per te. La giustizia arriverà a bussare alla tua porta. Toc toc. Non correre a piangere sui social media. O te pongas a llorar por las redes sociales. Così qualche tempo fa Nicolás Maduro annunciava la sua operazione Tuntun, in realtà nelle sue parole rivolte a terroristi, violenti, cospiratori, congiurati, lo avete sentito. Quello che invece è accaduto, secondo l'ONU e le indagini che sono state portate avanti da il team investigativo che ha fatto 274 interviste a distanza, intervistando vittime, testimoni, funzionari statali, ex funzionari statali, analizzando documenti, è che Nicolás Maduro si è macchiato di crimini contro l'umanità. Sarebbero sparite, sarebbero state uccise varie persone, un numero assolutamente non calcolabile, ovviamente. Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, a Marinellis Tremanunno. Buongiorno Marinellis. Buongiorno, grazie mille. Marinella Estremanun è una giornalista italo-venezuelana, ha scritto Venezuela, il crollo di una rivoluzione, edizioni Arcoiris, e segue, come immaginate, con particolare interesse ciò che sta accadendo. Un primo commento intanto molto generale, se vuoi, su questa condanna da parte, questa accusa anzi, scusate, da parte delle Nazioni Unite su Nicolás Maduro. Sì, questo senza dubbi è una conferma di quello che noi venezuelani abbiamo denunciato da anni, che il popolo venezuelano è sotto sequestro da un cartello criminale, e si conferma un'altra volta il genocidio che sta soffrendo il popolo venezuelano, purtroppo. Le parole di Marinellis Tremanunno, tra pochissimo, grazie a lei cercheremo di capire anche il polso di Caracas e del Venezuela. Intanto vi do conto di quelle che sono le reazioni da parte di Maduro stesso. Per esempio il governo di Caracas dice: il rapporto dell'ONU è strapieno di falsità. Il documento, ha dichiarato in serata il ministro degli esteri venezuelano Jorge Arreaza in un tweet, è stato redatto da lontano, senza alcun rigore metodologico, da una missione fantasma contro il Venezuela, controllata da governi ossequiosi nei confronti di Washington. Gli ha fatto eco invece il leader oppositore venezuelano Juan Guaidó, ha detto che il rapporto di ieri sera elimina ogni dubbio sul fatto che Nicolás Maduro non sia altro che un criminale. Marinellis Tremanunno, da quello, dai tuoi contatti, dalle persone con cui sei costantemente in contatto appunto da Caracas e non solo, come è stata accolta questa notizia? Il paese si è spaccato nuovamente oppure stanno cambiando un po' gli animi, le sensazioni, anche le emotività? La gente è stanca, stiamo parlando di anni e anni di crisi politica, economica, a questo punto anche civile, la gestione del Covid, lasciamo stare. Che notizie hai da Caracas? Il popolo in generale, da una parte, diciamo, è contento che finalmente a livello internazionale si possa chiarire definitivamente che queste torture, queste persecuzioni, queste esecuzioni giudiziarie e extragiudiziarie esistono in Venezuela, e dimostra un'altra volta che non si può avere ambiguità per quanto riguarda la situazione del popolo venezuelano. Esiste un popolo che sta soffrendo, che soffre persecuzione politica, e anche il popolo in generale, diciamo, attraverso queste forze della polizia, che quindi non solo i dirigenti politici, i leader politici, anche il popolo comune viene perseguitato e viene ucciso dalle forze dell'ordine comandate da Nicolás Maduro. Questo viene confermato da questo rapporto. Da un'altra parte il popolo in generale ha anche paura che sia un'altra volta una dichiarazione che poi non porti a nulla. Questo è il problema, sì, perché non è la prima volta che queste cose vengono denunciate a livello internazionale e poi non accade nulla di importante e la situazione continua a peggiorare. Nonostante quelle ONG che lavorano all'interno del paese nella difesa dei diritti umani, ad esempio quella più importante è il Foro Penal Venezuelano, sì, che è quella che viene denunciando la persecuzione politica da molto tempo, loro pensano che questo sia definitivamente un rapporto che possa mettere un prima e un dopo, perché questo rapporto permette portare ai leader del chavismo, diciamo del governo di Nicolás Maduro, alla Corte Penale Internazionale, sì, una situazione che era già stata fatta nel 2018, dobbiamo ricordare, da 6 paesi insieme all'OSA, all'Organizzazione degli Stati Americani, che avevano già fatto una denuncia nel 2018, a maggio 2018, dove in quel momento parlavano di 11 funzionari con responsabilità politica diretta e in queste situazioni di violazione dei diritti umani e 146 funzionari subordinati, sì, che hanno seguito gli ordini. Sì. Però a questo punto non è la prima volta, ma a questo punto si punta il dito direttamente verso Nicolás Maduro e le sue responsabilità. Grazie mille intanto a Marina Listrema 1 per essere stata con noi, giornalista italo-venezuelana. Ricordo il suo libro Venezuela, il crollo di una rivoluzione. Grazie mille Marinellis, alla prossima. Noi andiamo velocissimi, no, rispettando il codice, velocissimi sulle strade italiane. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano proviamo a raccontarvi quelli che sono anche gli esiti o che saranno gli esiti politici di questo durissimo atto d'accusa da parte delle Nazioni Unite, con la voce di Marinella Estrema Nunno per esempio, ma lo faremo tra pochissimo anche con Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore in America Latina, e lo faremo anche rispondendo a un ascoltatore per esempio che ci scrive da Caracas, che assolutamente respinge al mittente quella che a suo parere è una narrazione assolutamente faziosa, quella che stiamo facendo noi. La condanna di Maduro, scrive e soci, è un'altra manovra del governo di internet di Guaidó, il quale non ha nessuna popolarità o credibilità essendo coinvolto in scandali di corruzione. Piuttosto l'ONU, continua John, che scrive da Caracas, perché non si occupa di Colombia o Cile? Così un ascoltatore. Allora, uno dei punti forse più nevralgici, più dolenti del rapporto delle Nazioni Unite è stato andare a ricostruire la storia delle vittime, e ce n'è uno in particolare che si chiama Caso C2E01. Caso C2E01. Nome della vittima sconosciuto. Le uniche informazioni disponibili sull'identità della donna indicata con il codice C2E01 riferiscono che si tratta di un attivista anti-Maduro che sostiene un'importante figura dell'opposizione. A mezzanotte del 30 marzo 2017, poche ore dopo l'annuncio in diretta TV dell'operazione Toc Toc, circa 40 agenti della SEBIN, il Servizio Bolivariano Nazionale di Intelligence, bussano alla porta della donna e insieme a due familiari la trovano in possesso di maschere antigas e dispositivi di pronto soccorso per i manifestanti. Gli agenti del SEBIN arrestarono la donna senza mandato di cattura e senza leggerle i suoi diritti. C2E01 viene condotta all'Elicoide, un gigantesco edificio nel centro di Caracas, progettato in origine come centro commerciale e diventato un centro di detenzione. L'attivista viene interrogata per ore sulle sue idee politiche, sulle sue frequentazioni, sui suoi rapporti con potenze straniere. Un'agente donna del SEBIN la lega e la benda e la conduce in una stanza piena di agenti uomini. Qui, a C2E01, vengono somministrate scariche elettriche sulle braccia e sulle caviglie. Un funzionario maschio minaccia di sottoporla a uno stupro di gruppo se non rivelerà le sue frequentazioni e i suoi contatti con l'estero. C2E01 e i suoi compagni sono rimasti rinchiusi in carcere per oltre un anno senza alcun processo. rilasciati nel tardo 2018, al momento sono ai domiciliari in attesa della pronuncia del tribunale. E questa è una delle storie che sono contenute nel lunghissimo rapporto di denuncia e di accusa da parte delle Nazioni Unite, 274 interviste, lo dicevamo, fatte tutte a distanza, questo è utile precisarlo, ma per il non consenso da parte del governo di Maduro a effettuare le interviste sul campo. Quello che è certo è che dal 2014 il paese ha visto fuggire 4,5 milioni di persone, una crisi economica che ha portato il paese quasi al collasso con la sua dipendenza praticamente univoca dal petrolio. Cerchiamo di capire quale può essere allora il prossimo scenario negli ultimi minuti che ci rimangono e lo facciamo con Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore per l'America Latina. Roberto, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Allora ti chiedo un po' di sfregare la sfera di cristallo, Roberto. Abbiamo spesso parlato di Venezuela, di questa crisi, un Nicolás Maduro che resiste. Arriva un'altra tegola, questa volta la tegola è blu, arriva dalle Nazioni Unite. Può essere quella che fa incrinare definitivamente il potere di Maduro o da questo punto di vista hai dei dubbi? Ho dei dubbi. La questione è molto complessa. Sicuramente questa delle Nazioni Unite è una mossa importante. Il segretario generale Guterres ha manifestato il proprio sconcerto e la preoccupazione. Quindi tutte queste sono passaggi diplomatici e politici di grande rilievo. Ciò detto, io credo sia davvero difficile da ricomporre questo puzzle e non vedo a breve termine una soluzione del problema. Pochi giorni fa è arrivata una nave petrolifera iraniana, sì. E questo approdata a Caracas, a dispetto delle sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto nelle relazioni con il Venezuela. Questo vuol dire che comunque dei buchi nelle sanzioni, nel sistema delle sanzioni ci sono sempre e le alleanze altrettanto rimangono forti, o addirittura quelle di Maduro, dico, si possono rafforzare con Russia, Cina, Iran, che sono potenze anche militari. Sì. Al tempo stesso quello che sta succedendo in Colombia non semplifica l'operazione, la linea politica dei falchi americani che avrebbero voluto già tempo fa dare una spallata a Maduro. Quindi a dispetto di una situazione molto critica e di un Maduro che certamente ha alzato i toni e ultimamente sono state diffuse in rete delle immagini piuttosto raccapriccianti, sì, di violenze ai danni di dissidenti o di manifestanti, sì, ecco, non vedo nel breve termine una soluzione. Piuttosto il Covid rischia di amplificare le tensioni e di rendere, come dire, il capitolo Venezuela meno cogente, meno urgente. Abbiamo altre priorità, si dice a Washington, e non dimentichiamo che tra pochi mesi di novembre ci sono le elezioni presidenziali, quindi, come dire, è lo stesso Trump che appartiene, che certamente, oltre che essere presidente degli Stati Uniti, è per la linea più dura con il Venezuela, certamente non vuole prendere sbandate su questo tema, quindi certo, ecco, non ci sono soluzioni facili, problemi difficili e soprattutto non ci sono nel breve termine. Questa è l'amara verità che ci consegna Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore per l'America Latina. Grazie mille Roberto, buona giornata e buon lavoro. E a questo punto vi consegno un'altra amara verità, che è questa: You're fired. Anche se qualcuno, Roberto Fisani, potrebbe essere contento, qualche ascoltatore particolarmente velenoso. Detto ciò, vi ringrazio tutti per essere stati all'ascolto, ringrazio la squadra, l'appuntamento è per domani, ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con SuperSite. Su Aruba.it.